Tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Filippo Regi in regia. Una domenica di emozioni fortissime, quella che stiamo vivendo. Il Gran Premio di cui vi ho raccontato la partenza è soltanto al terzo giro, con le due Red Bull che sono partite benissime già in fuga. Vettel primo, Webber secondo, terzo è Hülkenberg, quarto è Alonso che ha scavalcato nel frattempo Hamilton, ma siamo solo all'alba di questa corsa che potrebbe, con tutti gli scongiuri e i forse del caso, dare il titolo ad Alonso. Per quanto riguarda invece la decima tappa del campionato di calcio, la vincono il Milan, la Juventus e il Napoli. La perdono l'Inter, che ha pareggiato 1-1 ieri in casa con il Brescia, come sapete, aprendo forse ufficialmente la crisi, e oggi ha avuto la certezza di aver perso anche il suo difensore più forte, cioè Samuel, per l'intera stagione, lesione al legamento del ginocchio, e stagione finita presumibilmente per Walter Samuel, che verrà operato. La perde la Lazio questa tappa, che senza forse sapere neanche bene perché perde il derby di Roma 2-0, un derby di Roma molto equilibrato, in cui anche le occasioni da gol sono state distribuite in maniera uguale, in cui la Roma però vince per due rigori concessi, piuttosto netti in realtà, e trasformati da Borriello al quinto della ripresa e da Vucinic al 41esimo del secondo tempo, ma dopo che un rigore altrettanto evidente non era stato concesso da Morganti alla Lazio al 33esimo, trattenuta di Rise su Mauri, e al 37esimo Foggia aveva colpito in maniera clamorosa il palo, poteva essere il gol dell'1-1. Da dire che anche le pali e traverse sono stati distribuiti in maniera identica, perché anche Simplicio sull'1-0 aveva colpito una traversa altrettanto clamorosa. Derby molto equilibrato, partita chiaramente da pareggio, che però la Roma vince e la Lazio vede il Milan avvicinarsi. Il Milan oggi a Bari, anche in situazione di emergenza, giocava Jeppes per la prima volta in stagione al centro della difesa. Ebbene, il Milan a Bari gioca forse la sua miglior partita stagionale, passa subito dopo 4 minuti cross da sinistra di Seedorf per il colpo di testa di Ambrosini, raddoppia al 31esimo su azione di contropiede con Ibrahimovic che produce un assist per Flamini, anche lui in campo dall'inizio oggi. Al 47esimo c'è un contrasto in area rossonera con Abbiati che atterra Barreto, poteva essere calcio di rigore, ma il Milan sbaglia una quantità industriale di palle gol in contropiede, tanto che quando Kutuzov al 20esimo accorcia le distanze, arrivano per i rossoneri anche, possono arrivare per i rossoneri anche cattivi pensieri, perché dopo aver tanto sbagliato con Ibrahimovic, con Robinho che oggi ha giocato titolare, con Ronaldinho in panchina, ha costruito molto Robinho, ma ha sbagliato anche almeno un paio di gol facilissimi. Però il Milan trova nuove risorse dalla panchina, è il tanto criticato di questi tempi Pato a chiudere la gara al 27esimo della ripresa, manco a dirlo, in azione di contropiede Bari in pessimo stato di salute, quinta sconfitta consecutiva per i pugliesi, diagonale sinistro di Pato per il gol del 3-1, c'è tempo ancora per Barreto che al 90esimo segna il gol del 3-2, difesa rossonera rivedibile, però un Milan che ha lasciato un'ottima impressione sul fronte interno, e qui continuo ad avere la convinzione che il Milan abbia non so quanto volontariamente cambiato la sua pelle abituale, cioè da squadra europea che non può avere grandi ambizioni, e la partita con il Real Madrid al di là del risultato finale lo ha secondo me confermato, è invece una squadra che può legittimamente ambire a questo scudetto, considerati i guai dell'Inter come dicevo prima. Inter che ha perso un sacco di pezzi e continua a perdere, 34 infortuni in stagione sono un numero spaventoso, quello di Samuel è molto grave, come detto per lui stagione finita. La Juventus non molla la presa, anche ridotta ai minimi termini, anche qui causa infortuni, Sørensen debuttava, è tornato grosso dopo un'infinità di tempo, era stato messo fuori rosa come sapete. La Juventus batte il Cesena soffrendo, per la verità. Cesena che era, dopo due giornate era primo in classifica, ve lo ricorderete, aveva battuto il Milan, era a punteggio pieno, nelle successive 8 giornate ha fatto soltanto 2 punti. Oggi era partito bene il Cesena, andando in vantaggio all'11esimo con un'azione dalla sinistra, un colpo di testa di Schelotto a liberare Jimenez, solo a 2 passi dalla linea di porta, 1-0 per il Cesena, difesa juventina quantomeno un po' colpevole. La Juventus riesce a pareggiare alla mezz'ora su un rigore, Pellegrino che tira leggermente in area Bonucci, non un rigore clamoroso, su azione di calcio d'angolo, di calcio d'angolo tirato da Del Piero, che calcia anche il rigore ed è 1-1. Intanto vi segnalo che Alonso si è arrampicato, settimo giro sui 71 previsti di questo Gran Premio del Brasile, si è arrampicato al terzo posto alle spalle delle due Red Bull. Tornando in cronaca, per quanto riguarda il calcio, c'è da segnalare anche l'espulsione dello stesso Pellegrino che aveva causato rigore ed era stato anche ammonito in quella circostanza. Al 42esimo stende Pepe a centrocampo, seconda ammonizione ed espulsione. Cesena in 10 uomini appunto al 42esimo del primo tempo e Juventus che passa un minuto dopo su un cross destra di Marchisio. Il Cesena ancora non si era piazzato bene in difesa dopo l'espulsione di Pellegrino, colpo di testa da sottomisura di Quagliarella, 2-1. Partita chiusa al 43esimo della ripresa da un piatto di Iaquinta in anticipo sul difensore in conseguenza di un cross di Salja Mizic. Intanto io vi faccio subito sentire in diretta Max Allegri ai microfoni di Sky. È quasi vinto una partita con Real Madrid. Forse quella anche in modo immeritato, perché era giusto alla fine il pareggio, però a 30 secondi alla fine dispiace sempre non portare a casa la vittoria, ed oggi era importante ritornare alla vittoria. I ragazzi hanno fatto veramente una buona partita, mi dispiace per i due gol che abbiamo preso, però abbiamo creato molto, c'è stata molta disponibilità da parte di tutti. Ed è importante soprattutto perché chi è in van campo riesce sempre a fare il meglio e mettersi a disposizione per i compagni. Questa credo che sia una cosa molto importante per un gruppo che deve vincere. Fin qua, Ilaria, penso Nosotti, che però... sì, esatto, vai. Sì, andando proprio sulla partita, sì, sono arrivati 3 gol, ma almeno 5 chiare occasioni da rete le avete avute e sprecate malamente. E dopo che si è andate sul 2-0 lei ha cominciato a dire una parola che è risuonata in tutto lo stadio, nonostante i 40.000, concentrati, perché questo Milan si perde, non sa gestire non solo gli ultimi minuti? No, perché quando le cose sembrano facili, ci allentiamo un po' la concentrazione e dopo, come è successo oggi, prendiamo dei gol e alla fine abbiamo preso anche abbiamo subito anche un calcio d'angolo che a volte, visto che ultimamente prendiamo gol negli ultimi minuti, è una cosa molto pericolosa. Però la squadra ha fatto veramente una buona partita oggi, soprattutto nel primo tempo, dove ha aggredito molto il Bari, ha giocato molto in verticale. Fino a che abbiamo giocato in verticale abbiamo fatto veramente bene. Poi dopo ci siamo un po' beati dopo il 2-0 e comunque va bene così. Oggi ce ne sono stati questo Allegri, adesso ci fermiamo per il traffico, poi vi racconto le altre partite a cominciare dal derby di Roma e vi leggo una classifica nella quale il Milan scavalca l'Inter, si porta a 2 punti dalla Lazio, c'è come sapete o come saprete il turno infrasettimanale mercoledì sera e poi domenica prossima alla sera alle 20.45 il derby di Milano. Traffico. Strade in diretta. Andiamo subito sulla Firenze-Pisa-Livorno perché a causa di un incidente il traffico è momentaneamente bloccato e si formano code tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est sulla carreggiata verso Livorno. Incidente e code anche sulla A4 Milano-Brescia tra Trezzo e Capriate sulla carreggiata verso Brescia. Sul tratto fiorentino dell'Autosole ci sono code a tratti e rallentamenti per il traffico verso Bologna tra Incise e Firenze-Scandici e tra Calenzano e Barberino. Verso la Svizzera code per operazioni doganali sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code verso l'Autosole nei pressi degli svincoli per la fiera di Ropero, dove è in svolgimento l'ultimo giorno del salone del ciclo e del motociclo. Code anche tra Pero e Cormano verso Brescia sul tratto urbano dell'A4. Andiamo infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, si rallenta ancora tra Giussano e Verano Brianza verso Milano, in questo tratto si viaggia su carreggiata ridotta per un incidente avvenuto nel primo pomeriggio. Per il momento è tutto, noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Naturalmente potete intervenire quando volete da ora fino alle 19 su quel che più vi aggrada. 800 24 00 24 è il numero verde. Tanti gli ospiti che aspettiamo nel corso del programma e tanti anche gli ascoltatori che appunto potranno intervenire anche via sms come sempre 349 238 6666. Dunque, il derby di Roma, dicevi in apertura, la Lazio lo perde, forse non sa neanche perché. Quasi fatale, sto aspettando di sentire insieme a voi le interviste del dopo partita in diretta, quasi fatale che più di qualche responsabilità verrà magari data all'arbitro Morganti. In realtà è stata una partita molto equilibrata che la Lazio ha giocato con grande solidità, se mi passate il termine. Ha giocato meglio della Roma, secondo me, nel primo tempo. Roma che ha perso Menez dopo 40 minuti. Menez ha avuto un problema già in fase di riscaldamento, ha comunque giocato dall'inizio, ma dopo 40 minuti mi sembra un problema al polpaccio, si è arreso ed è entrato Greco, che è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria importantissima della Roma in Champions League. E a momenti Greco non sblocca anche il derby, anzi l'aveva sbloccato. Però il gol al 42esimo del primo tempo è stato annullato per fuorigioco di Borriello, che aveva servito l'assist a Greco. Era in fuorigioco in conseguenza di un rimpallo al limite dell'area. La partita si fa però nella ripresa. Al quinto il tiro di Simplicio, il mani di Lichtsteiner piuttosto evidente. Il rigore giustamente fischiato da Morganti. Sul dischetto va Borriello, che lo tira in maniera pessima. Muslera si lascia passare un pallone molto semplice in realtà da parare sotto il corpo, ed è 1-0 per la Roma. Al 32esimo c'è la traversa di Simplicio che arriva a rimorchio su un'azione, come si dice nel basket, su un'azione che si è sviluppata sulla sinistra. Tiro a botta sicura, traversa piena. Al 33esimo l'episodio che appunto prepariamoci a sentir commentato, insomma, perché su un cross da sinistra c'è Rise che trattiene in maniera evidente Mauri a due passi dalla porta. Era calcio di rigore, Morganti non lo vede. Al 37esimo c'è un palo che fa coppia con la traversa di Simplicio, palo colpito da Foggia, anche in questo caso azione piuttosto clamorosa, e palo colpito da due passi, palo pieno. Al 41esimo la partita finisce, fallo netto di Diaz su Baptista, questa volta Morganti lo vede, concede rigore, Vucinic lo trasforma con un tiro perfetto. Dicevi in apertura che questa è stata una tappa del campionato vinta dal Milan, che si avvicina alla Lazio e scavalca l'Inter, vinta dalla Juventus, che resiste nonostante la miriade di infortuni, a conferma tutto sommato dell'ottimo momento della squadra di Del Neri. Lo vince anche il Napoli. Napoli che ritrova i gol di Cavani. Cavani come Eto'o, stesso numero di gol, 8 in 10 partite di campionato, compresi i due che oggi hanno steso il Parma. Era un Napoli che partiva con molto turnover, ma a Cavani non si può rinunciare, naturalmente. Al 19esimo azione di contropiede su un Parma sbilanciato. Triangolo lungo tra Cavani e Zuniga, e lo stesso Cavani che con un diagonale segna il gol dell'1-0. Al 41esimo della ripresa la partita finisce con una bellissima azione a due tra Cavani e Lavezzi, che è subentrato nella ripresa. Il destro di Cavani in girata molto bello per il gol del 2-0. Non succede praticamente nulla di irrilevante, di importante in Sampdoria, Catania, testimonianza del fatto che a Cassano non si rinuncia a cuor leggero sul fronte doriano. Sampdoria che non crea nulla, partita da 0-0, 1-1 con i gol tutti nel primo tempo tra Udinese e Cagliari. Al 12esimo c'è forse il gol più bello dell'intera giornata per il vantaggio cagliaritano, cross da destra e un tiro al volo di Daniele Conti all'incrocio dei pali. Al 44esimo corner di Di Natale, prolunga di testa Inler per il tuffo di Floro Flores che segna l'1-1. Nel finale c'è anche lo stesso Di Natale che colpisce una traversa, ma la gara finisce in questo modo. Prima della classifica vi do un aggiornamento su Gran Premio: Vettel, Webber, Alonso, Hülkenberg, Hamilton, Kubica, Michael Schumacher, Rosberg dopo 14 dei 71 giri del Gran Premio del Brasile. Sta per parlare Ranieri, che naturalmente vi faccio sentire. Vi ricordo il nostro contatto 800 24 00 24, numero verde. Prima della classifica che vede ancora in testa la Lazio, Claudio Ranieri con Sky. Tutto ha girato dritto in questo derby? Sento che sono molto felice, che abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi sono stati splendidi dopo la bellissima prova a Basilea, dove avevamo vinto fuori casa per la prima volta in Champions League quest'anno, e per la prima volta abbiamo vinto anche in casa quest'anno, però giocando fuori casa, per cui abbiamo sfatato in 3 giorni, abbiamo sfatato due piccole cose che non andavano bene con la nostra volontà. Sono molto soddisfatto, molto contento della prova, al di là dei due gol, perché la Roma ha giocato veramente bene, con intelligenza, senso tattico. Sono veramente felice stasera. voleva dar fuoco alla Lazio, ha detto ieri Ranieri, l'avrete sentito in conferenza stampa, non so se la Lazio è un fuoco di paglia, noi faremo di tutto per darle fuoco. Oggi c'è riuscito, forse con la complicità di Morganti. Intanto dicevi in apertura, tappa di campionato, decima tappa di campionato, che il Milan vince insieme alla Juventus. Lazio 22, Milan 20, Inter 19, Juventus e Napoli 18, Sampdoria e Roma, Roma che sta risalendo 15, Chievo Udinese 14, Fiorentina 12 e poi un'ammucchiata a quota 11 che comprende Palermo, Cagliari, Catania, Genoa, Bologna, Lecce, Brescia 10, Parma, Cesena e Bari 8 punti. Stasera c'è Genoa-Palermo. Enrico Curò, inviato di Repubblica oggi a Bari. Ciao Enrico. Ciao. Milan che vince questa tappa, forse ho sentito dire il miglior Milan della stagione, sei d'accordo? No, assolutamente no. È una squadra che rischia di... che prende due gol dal Bari di oggi e che rischia di pareggiare una partita che aveva in pugno perché sperpera almeno 5 occasioni da gol gigantesche. Se questa è la partita del Milan, il Milan si può preoccupare. Diciamo che è stata una partita nella quale il Milan certamente ha dimostrato di poter avere un equilibrio tattico superiore rispetto al solito quando schiera un maggior numero di giocatori a centrocampo, come è successo oggi. Quindi c'erano Gattuso, Ambrosini e Sarri tutti e tre insieme, e questo ha permesso al Milan di essere più equilibrato. L'equilibrio poi è diventato ancora, secondo me, più evidente quando è entrato anche Pirlo al posto di Seedorf, e lì forse quella sarebbe la quadratura perfetta della squadra dal punto di vista dell'equilibrio. Dal punto di vista invece dell'atteggiamento, della capacità di gestire la partita, mi sembra che il Milan di passi in avanti ne debba fare ancora moltissimo. Potrebbe essere sufficiente questo Milan per vincere lo scudetto, ma non perché il Milan sia eccezionale, quanto perché le altre non lo sono. Certo, possiamo dire però, è ufficiale, il Milan ha cambiato pelle, ha cambiato DNA da squadra europea a squadra che ha ragionevolmente molte più ambizioni in Italia. Ma io credo che questo non si possa ancora dire, nel senso che il Milan in Europa naviga un po' a vista, cioè dipenderà da come si troverà, in quali condizioni si troverà a marzo. Allora lì si potrà capire se magari il Milan nel frattempo avrà trovato un assetto tattico più preciso, una situazione più chiara, se i giocatori che finora sono stati molto intermittenti, tipo Pato, avranno veramente recuperato la loro dimensione. Allora il Milan potrebbe anche fare qualcosa di buono in Champions. Certamente il campionato è una squadra capace di vincere delle partite soffrendo, che è poi la caratteristica necessaria per vincere gli scudetti. Enrico, ti chiedo ancora questo, la notizia della gravità dell'infortunio di Samuel è di oggi. Guardando oggi l'Inter vedi solo un cumulo di problemi, Samuel fuori per tutta la stagione, un numero impressionante di infortunati, una squadra che sembra aver quasi perso anche la sua personalità. È crisi ufficiale per l'Inter? Credo di sì, soprattutto perché Mourinho, andando via dall'Inter, non ha portato via soltanto se stesso, ma ha portato via soprattutto quell'autostima, quella convinzione di essere più forti degli altri, che in qualche modo sta trasmettendo adesso al Real Madrid. Io non so se Mourinho sia davvero un allenatore fantastico o speciale come lui stesso si accredita, però è certamente un allenatore capace di trasmettere alle squadre che allena una grandissima convinzione. Questa convinzione l'Inter, un po' per gli infortuni, un po' per i risultati e un po' anche per il fatto che ha subito troppo passivamente certe situazioni, l'ha certamente persa. La può forse riacquistare in parte con Milito, perché non dimentichiamoci che finora l'Inter Milito non l'ho avuto, e anche se i giurati del pallone d'oro se ne sono dimenticati, Milito l'anno scorso ha fatto parecchie cose all'Inter. Non c'è dubbio. Grazie Enrico, buon lavoro. Ciao. Un abbraccio, grazie Enrico Curro. Ranieri ancora, diretta. Sono tanti anche a favore nostro, per cui credo che abbia usato lo stesso metro di giudizio l'arbitro. Compensazione del rigore che doveva essere, poteva essere a favore della Lazio. Compensazione no, perché se vediamo, no, io parlavo di trattenute, no, di questo tipo di trattenute che no, avete fatto vedere, no? Allora mi fate vedere il gol che hanno annullato il primo tempo nostro? Io ho guardato completamente la partita, Claudio, devo dire che sono... No, io non ho visto, non ho visto il nostro gol annullato. Me lo fate vedere, dato che siete bravi. Sul rimpallo c'era Buriani in fuorigioco. Rivedere tutti gli c'era episodi, mezzo fallo. Sì, sì, sì. A me è sembrato giusto quello che ha detto adesso Ranieri, perché nelle punizioni... Eccolo qua. Tutte le squadre. Qui c'è questo piede in avanti, difficilissimo, onestamente. Il Guadalini ha alzato la bandierina. Qui c'è questo mezzo piede in avanti che... c'è mezzo piede in avanti, però a sensazione la posizione di Boriello, anche non a sensazione, poi non tracceranno la solita linea virtuale sul campo, la posizione di Boriello in fuorigioco, l'arbitro fischia prima del gol segnato da Greco sul cross di Boriello in conseguenza di questa azione sulla sinistra. Al di là di questo possiamo discutere come al solito all'infinito, polverizzando ogni partita in un miliardo di episodi. La verità è che i due rigori per la Roma erano netti, ma lo era anche il rigore che poteva essere fischiato a favore della Lazio sull'1-1. Ecco la linea virtuale ed ecco il piede di Boriello in fuorigioco. Dunque, bravissimi, è il caso di dirlo in situazioni di questo tipo, l'arbitro e i guardaline che hanno visto il piede di Boriello al di là della linea virtuale tracciata dall'ultimo difensore della Lazio. 800 24 00 24, il numero verde. Poi so già che parleremo anche del rigorino dell'Inter di ieri sera, perché tale era quello su Eto'o che ha dato all'Inter 1-1, del rigore così della Juventus, a favore della Juventus, oggi trattenuta di Pellegrino su Bonucci. Parleremo anche di questo, però la sensazione è quella di una Lazio che ha giocato comunque alla pari della Roma, di una Lazio che rimane capoclasse con pieno merito fino a quando non lo so. Nel prossimo turno, mercoledì, la Lazio andrà sul campo di un Cesena messo male e ferito. Quella sarà una partita molto importante, perché molto ci dirà sul futuro della Lazio, soprattutto nell'approccio a quella gara. Fabrizio da Chieti e poi abbiamo anche Vincenzo da Reggio Calabria, sono i primi due ascoltatori di oggi. 800 24 00 24, numero verde. Fabrizio. Sì, buonasera gente. Salve. Volevo esprimere delle considerazioni e avere il suo pensiero in merito, no? Sì. Sono stato ieri sera a vedere la partita dell'Inter. Allora, secondo me c'è da fare queste considerazioni, no? Allora, l'Inter è sempre stata negli ultimi anni una squadra capace di ribaltare qualsiasi risultato. Perde 3-0, perde 2-0, può vincere. Sì. L'Inter di quest'anno è incapace di fare un gol. Allora, per due motivi fondamentalmente, questo è quello che voglio dire. Quest'estate è stata sbagliata il programma di quello che volevano fare, perché se vendi Balotelli 20 miliardi, se vendi Burdisso 8 miliardi, devi avere chi puoi sostituire. Milioni di euro. Milioni di euro. Milioni di euro, sì, miliardi. Per la precisione. E non ce l'hanno, perché ieri sera bastava avere Balotelli, magari, per poter cambiare qualcosa. Secondo me è stato sbagliato quello che avevano come programma, perché, voglio dire, questa è, come dire, la risposta, vedendo che ci siamo e l'oggi non c'è un difensore, non c'è uno che fa un gol, quindi è stato sbagliato il pensiero e è sbagliato anche, magari, anche la parte tecnica, perché Benitez, non lo so, non credo, ma penso che ci sia anche del suo. Un po' del suo probabilmente c'è, non grandissime responsabilità. Io ho ricevuto prima un messaggio di Luca da Brescia. Penso che all'Inter la responsabilità sia in società. Non hanno fatto mercato convinti che non c'era bisogno di gente fresca, forte e motivata. Ok, la sfortuna, però è lo stesso errore del Milan dopo la vittoria in Champions del 2005. Io sono abbastanza d'accordo con Luca da Brescia. Confermo il mio pensiero, ci voleva molto coraggio nello smontare la squadra che aveva appena vinto tutto, però forse poteva essere la mossa migliore, a cominciare dalla cessione di un Milito che a questo punto non so quanto spazio potrà trovare, perché Samuel Eto'o è un giocatore meraviglioso ma anche una dolcissima catena. Adesso chi lo muove più dal centro dell'attacco dell'Inter in queste condizioni? È chiaro che Milito non può essere la spalla di un Eto'o che gioca prima punta. Del Neri con Sky. Fino all'88esimo, insomma. Poi lei ha lavorato molto sull'aspetto psicologico in quel secondo tempo, continuava a urlare giochiamo da squadra. Forse psicologicamente il fatto di essere in superiorità numerica in vantaggio ha creato qualcosa nella testa dei giocatori. No, noi dobbiamo sempre cercare di creare la squadra, poi abbiamo nei giocatori le qualità importanti per poter finalizzare, è quello il senso. Il senso è riuscire a trovare la soluzione migliore per mettere in condizione il compagno di poter fare gol. Siccome nel calcio tante volte si sbaglia e tante volte si paga dazio, come si suol dire, dobbiamo capire che per diventare maturi, per avere le caratteristiche per lottare come stiamo lottando adesso, bisogna essere anche molto attenti a quello che si fa e a quello che si può fare in chiave di finire la partita, nel senso di non avere più problemi. Oggi abbiamo sofferto secondo me un po' più del solito, perché volevamo fare gol in certe situazioni magari senza guardare il compagno. Questo Del Neri, giustamente un po' critico nei confronti della sua Juventus, però una Juventus così ridotta ai minimi termini, per una Juventus così anche la partita di oggi con il Cesena poteva essere complicata ed è stata vinta, quindi io credo che la Juventus sia sulla strada per diventare una seria competitor per lo scudetto in questo campionato. Vincenzo da Reggio Calabria, la prego di stare con noi, ci fermiamo giusto pochi secondi e poi torniamo e chiacchieriamo insieme. 800 24 00 24, non avere, vi aspetto. Vi parla il numero 2, sono il primo numero pari dopo lo 0 e poi sono il terzo numero della successione di Fibonacci. Buongiorno, sono il 44. Sono un valore sorprendente perché esprimo il numero di nuove aziende italiane che nascono ogni ora censite da Cerved Group. Cerved Group è la prima information company integrata, leader nel campo della business information. Affidabilità, efficacia e immediatezza. Conta sull'informazione. Cerved Group. Conoscere per decidere. www.cervedgroup.com. Con chilometri sicuri di Unipol Gruppo Finanziario, il mondo delle polizze auto diventa il tuo ideale, perché paghi in base ai chilometri percorsi, non un metro di più. Scopri chilometri sicuri nelle agenzie Aurora e Unipol di UGF Assicurazioni. Benvenuto, accomodati. Ma questo è divano svedese. Che gentile, preso per me. No, per me, era proprio il mio stile. Eh sì, chiaci è tanti, ognuno trova il suo. E poi c'era un'offertona sui divani letto. Letto? Allora mi fermo a dormire. Ah, stile cozza aggrappata allo scoglio. Se siete soci IKEA Family, dal 1 al 30 novembre, con una spesa minima di 200 euro sui divani letto, avrete un buon acquisto di 20 euro spendibile a dicembre 2010. IKEA.it. Un amico me l'ha chiesto per il trasloco, un altro me l'ha chiesto per caricarci la legna, mio zio me l'ha chiesto per portare i quadri alla mostra. Ma perché non ve lo comprate un Transit? Transit Vantage DCI a 13.250 euro, solo a novembre. Sono al verde. E sei felice? Certo, con la tecnologia green di Fujitsu e Intel, il mio nuovo server risparmia energia e in 3 anni si paga da solo. È un Primergy con processore Intel Xeon. Fujitsu ritira e supervaluta il tuo vecchio server fino a 450 euro e puoi avere la cancellazione sicura e certificata dei dati. Allora passi al green. Puoi dirlo forte. Fujitsu cambia server. Offerta valida fino al 31 dicembre. 800-466-820. Cambiaserver.it. Nonostante la crisi, sempre più italiani viaggiano tutti i weekend. Come facciano rimane un mistero. Il segreto di chi viaggia sempre è il camper. Nessuna prenotazione, nessuna attesa. Devi solo partire. Scegli il camper.it, associazione produttori caravan e camper. Con i pneumatici invernali Pirelli guidi in sicurezza in tutte le condizioni stradali. Info su Pirelli.it. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Domani brutto tempo in gran parte dell'Italia, con nuvole in quasi tutto il paese e piogge che nel corso del giorno bagneranno soprattutto la Lombardia, il Triveneto, le regioni del versante tirrenico dalla Toscana giù fino alla Calabria e poi le zone interne del centro, le Marche, il Salento e le isole maggiori. Piogge anche di forte intensità in Campania e nel Lazio, mentre sulle Alpi cadrà la neve ma solo a quote piuttosto elevate. E per quello che riguarda le temperature, massime in diminuzione di qualche grado in gran parte dell'Italia. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E per il meteo è tutto. Ragazzi, mi serve un'auto nuova. Consigli? Buca le ruote della vecchia. Un cambio gomme in Citroën vale molto di più. Con il concorso Cambia due pneumatici e vinci. Se acquisti due pneumatici presso i riparatori autorizzati Citroën, puoi vincere una Citroën C3 Picasso. E se ne acquisti 4, raddoppi le possibilità. In più, controllo gratuito della batteria o una nuova a 54 euro. Esempio di prezzo valido per una Citroën C3 benzina. Scade il 31 gennaio 2011. Info su citroen.it. su Domus l'incredibile interno di Riccardo Dalisi, la scultura abitabile di Miguel Arruda e il sogno dell'architettura fatto dall'artista Frank Stella. In più 24 pagine e 9 autori per la nuova natura del progetto sostenibile. In edicola c'è una Domus da non perdere. Oh, oh, guarda quella vicino al semaforo! È uno schiaffo! Una telefonata, un CD, un rossetto, un passante. Quando sei al volante, ogni distrazione può uccidere te e gli altri. Quando guidi, pensa a guidare. Campagna promossa da Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Fantastico! Le immagini escono dalla TV! Sì, è 3D Emotion! 3D Emotion! La soluzione integrale expert per entrare alla grande nel mondo 3D con sconti fino a 500 euro! Come il kit TV 40 pollici 3D LED Samsung più lettore Blu-ray 3D più 5 occhiali 3D più film e mostri contro alieni in 3D! Che costa solo 1399 euro! Expert! La super promo 3D è solo da noi! Offerta valida nei punti vendita aderenti. Ma le immagini normali poi come le vedo? Super perfette anche quelle! State per sentire 299 cavalli al massimo della loro potenza. Oggi 299 cavalli di Lexus RX 450H Full Hybrid pesano solo 140 grammi di CO2 nella nuova versione a trazione anteriore. E con full leasing di Lexus Financial Services, RX può essere tua a 440 euro al mese. TAG 7,35%. Fogli informativi in concessionaria. A tempo di sport. Rientriamo quando sono stati percorsi 27 dei 71 giri previsti per il Gran Premio del Brasile ed è già cominciato il ballo dei pit stop. La classifica però non parziale, non è variata. Vettel sempre in testa davanti a Webber che si è appena fermato, si è fermato anche Alonso che ha conservato però la terza posizione e quarto è Rosberg, quindi questa è la classifica mentre appunto già iniziano i pit stop. Vincenzo da Reggio Calabria, buonasera, grazie per l'attesa. Buonasera a lei dottor Genta. Dica. Caro compagno insieme al dottor Garanzini di tanti pomeriggi di ascolto radiofonico, piacevole sempre. La ringrazio. Niente, due brevi considerazioni, così non le rubo nemmeno troppo tempo. Dica, uno dica. Sull'argomento delle settimane passate, Maradona, Pelé, perché volevo intervenire, non ho mai trovato il tempo, sì. Purtroppo, che io ho sempre considerato pari in virtù di due grandi dubbi che si porteranno sempre addosso, almeno a mio modesto parere. E per Pelé sarà quello del mancato confronto con difese europee, diciamo, sì. Di campionati europei, sì. Mentre per Maradona il potenziale che avrebbe potuto esprimere senza l'uso di determinate sostanze, con una vita da sportivo, diciamo, più sì. Seria. Ma nel genio c'era tutto questo pacchetto un po' perverso, quindi certo il dubbio è non avesse fatto uso di quello di cocaina dove sarebbe arrivato, non avesse fatto la vita che ha fatto fuori dal campo dove sarebbe arrivato Diego Maradona. Già così, secondo me, resta il numero uno, già così rimane il numero uno sul campo, perché Pelé, giusto quanto lei dice, confronto con le difese europee che non c'è di fatto mai stato e molto altro. Come Maradona, secondo me, nessuno. Un attimo Vincenzo, poi so che mi deve dire un'altra cosa, però prima la faccio sentire Eddie Ray in diretta con Sky. Si riferisce ai due presunti falli di rigore, mister? Sì, uno su Mauri nettissimo, poi il secondo rigore della Roma c'è stato un fallo prima di Battista su Lichtsteiner. Oltretutto c'erano due giocatori a terra e difatti Stendardo è uscito per un colpo. Tanto qua rivediamo, rivediamo mettiamo ordine, bravo, bravo Paolo. No, sì. È stato trattenuto Mario, ma questo si sapeva, si è visto anche dalla panchina, poi i ragazzi me l'avevano detto, stava concludendo l'azione dal di dietro, Rise l'ha trattenuto nettamente, insomma ha evitato a Mauri che no, possa ma Raia la dobbiamo portare un passo indietro, perché in realtà abbiamo visto con le immagini, abbiamo anche commentato con Ranieri, sì. C'è un fuorigioco abbastanza evidente, sì, ma di guardi, Dias fuorigioco, partenza, è il fuori, il fuori, che non esatto, viene segnalato però non viene segnalato dall'arbitro e tantomeno dal guardialinea, perché il guardialinea indica la rimessa dal fondo quando la palla è uscita, sì, se no sì. Stava con la bandierina fuorigioco. Allora signori, questo è vero, il fuorigioco di Dias sulla punizione calciata da Ledesma c'è, il guardialinea non lo segnala, così come l'arbitro non segnala questo rigore, però il fuorigioco esiste, dunque Dunque l'episodio va preso così com'è. Punizione di Ledesma dalla sinistra, al momento del calcio di Ledesma, Diaz, che non può essere certo considerato in posizione passiva perché sfiora anche il pallone, e quindi la palla arriva sul secondo palo, dove Mauri viene trattenuto nettamente da Rise. Ma siamo alla solita polverizzazione delle partite. Di fatto questo derby, dal punto di vista del gioco, secondo me pari è stato, non dal punto di vista del risultato. La Lazio conserva il primato in classifica. Adesso la grande domanda è: quanto peserà sulla Lazio l'aver perso questa partita? Anche oggi la Lazio ha dimostrato di essere una squadra in grandi condizioni, e viste le altre che ci sono dietro, potrebbe anche legittimamente, non dico pensare allo scudetto perché secondo me non è così, però pensare di rimanere in testa alla classifica per un altro po'. Vincenzo, stavamo dicendo? La seconda considerazione, essendo io juventino sfegatato ma senza il prosciutto sugli occhi ovviamente, sì, è fondamentalmente rispetto alla Juve dell'anno scorso, di proprio come significhi il cambiamento della Juve da un anno all'altro, quanto sia importante la presenza di una società o quantomeno di un corpus societario nell'ambito di valutazione di una squadra, perché per esempio quest'anno abbiamo un Marotta, un Paratici, un Agnelli presenti al campo d'allenamento, che fanno, prima di determinate partite, fanno sentire alla squadra il peso dell'importanza di portare quella casacca, e sta proprio, secondo me, questo è vero miracolo, quello che sta poi avvenendo a Roma, al contrario, perché è venuta a meno la società quest'anno rispetto all'anno scorso, e la Roma, a mio parere, questo diciamo, suo andamento altalenante. Diciamo che la Juventus ha iniziato dopo 3 anni a costruire veramente qualcosa. Anch'io ho questa sensazione. Credo che ancora dal punto di vista dell'organico non sia una squadra altamente competitiva. Dal punto di vista della solidità dell'impianto, se vogliamo dire così, secondo me sì, comincia ad esserlo sul serio. La Juventus secondo me ha vinto sabato scorso a Milano la partita più importante dal suo ritorno in Serie A. Oggi aveva una gara piuttosto complessa da affrontare, con tutti gli infortuni che sappiamo, con una settimana che è stata quella successiva alla vittoria con il Milan, con le fatiche di una coppa che non sta andando benissimo. Non è stata brillante la Juventus, ma è riuscita a portare a casa anche questa partita, ed è un altro segnale positivo che rientra in questo conto della sensazione di una squadra che, se continua a crescere e magari a gennaio aggiunge qualcosina di importante, può essere legittimamente competitiva già per questo scudetto. Questa è la mia sensazione. 800 24 00 24, numero verde. C'è un ascoltatore che mi segnala anche tra le altre cose che il Manchester City sta vincendo 2-0 sul campo del West Bromwich di Di Matteo, con doppietta di Balotelli. Giancarlo Tenivella da Torino, buonasera. Proprio così, la quinta, questo in diretta. Spero che sia l'ultima volta che mi fermo, perché non ce la faccio più. Ecco, abbiamo visto una Roma vincere il derby, dunque è caduta la Lazio, la capolista, i giochi per lo scudetto sono aperti a questo punto? Sì, siamo tutte lì, però noi non dobbiamo pensare diciamo allo scudetto, perché il campionato è ancora lungo e, come dice sempre il mister, dobbiamo guardare partita dopo partita. Stiamo facendo grandissime cose, grandi passi avanti, e adesso pensiamo già alla sfida di mercoledì, che è un'altra partita importante e difficile. Ecco, tutti questi infortuni, tu come li spieghi? È un po' di sfortuna, perché visto De Celi, si è rotto la rotazione, Martinez, il piede, Felipe oggi è risentito male. È dura, però credo che quelli che sono entrati in campo oggi, sia il giovane centrale, ha fatto una grandissima partita, una grandissima prestazione. E siamo contenti di questo, però bisogna andare avanti e sperare di recuperare anche tanti infortunati. Ecco, entrate in una settimana delicata, mercoledì la trasferta a Brescia, poi in casa sabato nell'anticipo contro la Roma. Ci sono in palio punti preziosissimi. Sì, sicuramente è una settimana molto importante per noi, anche che Chiellini sta recuperando. Però dobbiamo fare come oggi, l'atteggiamento deve essere come quello di oggi e andare avanti. Questo è Iaquinti in diretta con Giancarlo Tenivella. Avete sentito, molto divertente. Il giovane centrale si chiamava Sørensen, probabilmente l'avrà visto pochissime volte Iaquinti, dato che è un ragazzo della primavera che oggi ha debuttato in Serie A. Dunque, con un Gran Premio che è al giro 34 dei 71 previsti e la classifica è invariata con Vettel, Webber, Alonso, Hamilton, Button, Kubica, Rosberg e Sutil, questi primi 8, e quindi gara ancora tutto da fare dopo il primo giro di pit stop. Ci fermiamo un attimo per il traffico. Pubblicità. Per tutti quelli che lavorano, per tutti quelli che hanno la partita IVA, che banca ha creato Conto Deposito Business. Oh yeah! Il 2,25% sulle somme depositate per un anno e interessi in anticipo. Condizioni valide fino al 31 dicembre 2010. Fogli informativi su chebanca.it. Che banca! La banca per tutti del gruppo Mediobanca. Oh yeah! Con i pneumatici invernali Pirelli guidi in sicurezza in tutte le condizioni stradali. Info su pirelli.it. Vi presenta Strade in diretta. Andiamo subito sulla Firenze-Pisa-Livorno. A causa di un incidente con due veicoli coinvolti è stato chiuso il tratto compreso tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Arest sulla carreggiata verso Livorno. Le code prima del tratto chiuso partono da Santa Croce sull'Arno e si formano code anche in direzione Firenze. Sul tratto fiorentino dell'Autosole ci sono code a tratti e rallentamenti per il traffico intenso verso Bologna, tra Incisa e Firenze-Scandicce, tra Calenzano e Barberino. Code per il traffico anche sulla diramazione Roma-Sud verso la capitale tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono delle code in direzione Autosole nei pressi degli svincoli per la fiera di Ropero, dove è in svolgimento l'ultimo giorno del salone del ciclo e del motociclo. Code anche tra Pero e Cormano verso Brescia sul tratto urbano della A4. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. Se vuoi viaggiare sereno, scegli Sesto Senso, la polizza d'assistenza di Allianz che installa sulla tua auto un dispositivo satellitare per guidare in tranquillità. Un esempio? Sesto Senso ti difende dai ladri. Se la tua auto si muove senza la chiave elettronica in dotazione, Sesto Senso contatta la centrale operativa che ti avvisa subito e supporta le autorità nel recupero della tua auto. A soli 144 euro all'anno. Chiedi Sesto Senso agli agenti delle reti Allianz. Allianz, soluzioni dalla A alla Z. A tempo di sport. Torniamo con dichiarazioni di Max Allegri alla Rai. Allegri ha detto: l'Inter aveva abituato tutti troppo bene dopo un anno come quello scorso. È difficile ripetersi. Quanto al Milan, qual è quello vero? Quello sabato, di sabato scorso, di mercoledì in Champions e di oggi? È sempre lo stesso. Però attenti, prendiamo troppi gol, dobbiamo migliorare, dice Allegri. 800 24 00 24, invece, per quello che direte voi nel programma di oggi. 36 giri compiuti al Gran Premio di Interlagos in Brasile, nulla è mutato in classifica. Vettel, Webber, Alonso, poi Hamilton e gli altri, ma il distacco tra Alonso e Vettel che comanda è già più sensibile, 17 secondi. Marco Montanari dall'Olimpico, buonasera. Eccoci, buonasera, c'è Simone Perrotto, lo ascoltiamo insieme. Sì. Simone, scusa, una battuta, siamo in diretta su Radio 24. La Roma vince il derby, l'importanza di questa partita? Importante perché dà sicuramente morale, importante perché sappiamo di aver dato una gioia incredibile ai nostri tifosi, però bisogna già pensare a mercoledì, perché questa è una squadra che deve pensare a vincere in fondo all'anno, non solo i derby. Ecco, però una vittoria che arriva dopo tante assenze, no? La Roma si è presentata a questa partita, quindi una vittoria anche importante da questo punto di vista. Sì, facevamo la conta di quelli che erano fuori e stavamo valutando che questa è una grandissima squadra, una rosa con dei giocatori incredibili, perché se i giocatori del calibro di Totti, di Juan, di Pizarro, di Brighi e tantissimi altri fuori, significa che, e fai questo tipo di partite, significa che comunque hai una squadra pazzesca alle spalle. Questo era Simone Perrotta. Perrotta in diretta. Senti Marco, ma le facce della Lazio come sono? Chiaramente volti scuri per i giocatori della Lazio, perché insomma si aspettavano probabilmente un altro tipo di derby, vista la posizione di classifica, visti gli ultimi risultati e visto anche le tante assenze, come ricordavamo con Simone Perrotta, da parte della Roma, assenze pesanti in alcuni ruoli del campo che però oggi non hanno fatto vedere una grandissima differenza tra le due formazioni. Sostanzialmente una partita equilibrata. Vero. Che è stata poi sbloccata da episodi, così possiamo dire, episodi che naturalmente faranno discutere per i due ricalci di rigore trasformati, sì, sì, poi da Vucinic e Borriello, e anche per quel gol alla fine del primo tempo annullato a Greco, che oggi è subentrato al posto di Menez, anche se seppur di poco lì c'è un fuorigioco da parte, certo, di Borriello. In quel caso bisogna dirlo, bravissimi l'arbitro e i suoi assistenti nel pescare questa situazione di fuorigioco di Borriello. Io ringrazio per il momento Marco Montanari con Perrotta, ci sentiamo semmai nel corso della seconda ora. Per il momento invece voglio fare, ed è un grande piacere, due chiacchiere con Alberto Malesani, allenatore del Bologna. Buonasera mister, grazie. Buonasera. Buonasera. Ho sotto gli occhi la classifica, mi sembra ottima quella del Bologna, con una squadra, mister, per scelta direi aziendale piuttosto curiosa, un grande portiere, un vecchio grande attaccante come Di Vaio e tanti giovani, molti dei quali è la prima esperienza. Sì, è un lavoro che mi ha creato entusiasmo, perché quando si lavora con i giovani è una bella cosa, e stiamo facendo credo anche bene, perché io è da 60 giorni che sono a Bologna e quindi le cose stanno andando abbastanza bene, c'è da migliorare, c'è da fare tante cosine ancora, però tutto sommato va bene ancora. Sì, questi vecchi attaccanti Di Vaio, Inzaghi eccetera non mollano mai, eh? Ma dipende dalla passione che ha uno, dalla voglia, sì, che ha. Sono da esempio, avere la fortuna di avere attaccanti di questo tipo in squadra, se tu vuoi far crescere i giovani è l'ideale, perché sono gli esempi buoni che poi creano i presupposti perché un giovane impari. Certo. Mister, lei è un allenatore subentrato dopo una stagione, quella passata di allenatore all'insegna dell'usa e getta, forse è un po' presto, ma che ci sia un'inversione di tendenza, non so per quali motivi. Non lo so, perché io parlo per me, perché non mi allargo, ognuno ha le proprie problematiche e le proprie carriere. Io dico che il giorno d'oggi se non fai risultati è dura, quindi se uno a volte non fa risultati poi deve ripartire da zero, perché il passato conta poco, sì, e deve mettersi comunque in linea, tornare a fare risultati, e dopodiché lì si aprono altre possibilità, secondo me. Senta, come valuta il lavoro di Eddie Rea alla Lazio? Come valuta la Lazio di Eddie Rea? Oggi ha perso il derby, ma non so quanto peserà sul futuro immediato della Lazio questa partita e questa sconfitta. Immagino un po', però ha perso un derby giocato grosso modo alla pari con la Roma. Viste le altre, la Lazio, se non ha un contraccolpo troppo violento da questa sconfitta, potrebbe rimanere davanti ancora per un po', secondo me. Rea è uno di quei allenatori sottovalutati per tanti anni, le sue gioie ha iniziato a prendersi intorno ai 60 anni e questo sono molto felice per lui, perché è anche una persona molto seria e brava, il che vede, no, la riprova non c'è mai nella vita, magari una volta non gli viene offerta una possibilità importante e magari avrebbe potuto far bene anche lui in panchine importanti. Quindi anche Rea, magari ricevuto molto prima la possibilità, avrebbe fatto quanto ha fatto altri colleghi illustri. Sì. Poi invece per quanto riguarda la Lazio, credo che bisogna vedere le aspettative, come dicevo, come la mia squadra. Noi dobbiamo salvarci, poi se dopo si pretende che magari una squadra come Bologna che deve salvarsi debba essere il Real Madrid, quello non va bene. La Lazio credo che l'aspettativa non era quella di vincere il campionato. Certo. Quindi anche se ha perso oggi, io credo che loro possano tornare a casa comunque tranquilli, sereni, e riprendere la loro marcia. Stanno facendo un grande campionato. Le chiedo ancora questo, visto che lei l'ha alzata, la benedetta Coppa UEFA, nel 99, si è fatto un gran chiacchierare, un gran parlare della crisi del nostro calcio nello specchio dell'Europa. È davvero così? Siamo davvero in crisi guardando gli ultimi risultati europei? Oppure c'è, insomma, mi vengono in mente tante formazioni improvvisate che vanno, delle nostre squadre che vanno in campo in Europa League. Ma guardi, quella è una soddisfazione grossa, perché essere l'ultimo allenatore che ha vinto la Coppa UEFA, un ultimo allenatore italiano, mi dà tanta, rivaluta un po' quello che magari a quel tempo era stato sottovalutato come risultato, ma dico magari, ma il fatto di non vincere in Europa, secondo me, quando vai in Europa devi giocare. L'Europa non puoi essere sparanino, è molto diversa dal calcio italiano. Quello che ne ho fatta tanta di calcio internazionale, sì, sia in Champions sia in Europa. e se lì non giochi alla fine poi dopo esci, non c'è niente da fare perché il livello è molto alto e ci sono le migliori squadre d'Europa e tu devi far gioco. Secondo me il calcio italiano a volte sotto quel profilo lì magari paga. È stagnante, ecco. È stagnante perché in Italia se tu non fai risultato vieni esonerato, l'allenatore è sempre sotto pressione, non ti danno neanche tempo di lavorare, certo. Quindi le squadre sono tutte corte, chiuse, è il campionato più difficile del mondo. In Europa bisogna viverla, l'Europa bisogna viverla in un modo un po' diverso, io sono assolutamente d'accordo con lei. Mister, la ringrazio, grazie davvero. La coperta corta. La coperta corta, ha ragione. Mister Malesani, la ringrazio, chiudiamo così questa prima ora, ma subito dopo di nuovo insieme per un'altra ora di sport, a dopo. A tempo di sport. Eccoci tornati, un'altra ora insieme, oggi temi tantissimi, 800240024 per voi, vedo già tre ascoltatori in linea, ma prima un altro flash sul Gran Premio del Brasile, ritroviamo Carlo Vanzini, eccoci Carlo. Pronto? Sì, eccoci. Come lo vedi questo? Ma stavo guardando, adesso c'è una situazione particolare, scusa, mi ero distratto, sì. Perché c'è a muro contro le barriere, safety car in pista, quindi ricambia tutto, attenzione, perché sono 20 giri al termine, con Vettel davanti a Webber, Alonso che ormai era staccato di tanto, di 16 secondi a Sebastian Vettel, ma con la safety car in pista queste distanze vengono tutte accorciate e viene rimesso in gioco anche Lewis Hamilton che occupa la quarta posizione a 14 secondi da Fernando Alonso, quindi cambia tutto, cambia davvero tutto nello scenario di un mondiale che sembrava avviato verso Abu Dhabi, ma potrebbe nuovamente tornare in gioco anche qui con Vettel che è leader di questa gara davanti a Mark Webber. Webber che ha iniziato a inanellare giri più veloci rispetto al compagno di squadra, tanto da iniziare a pensare a una possibile strategia in casa Red Bull di far cedere la posizione a Webber, a Sebastian Vettel. Così facendo, mantenendo queste posizioni, Webber si troverebbe a un solo punto da Fernando Alonso, mentre mantenendo Vettel davanti a Webber, Webber sarebbe a 8 punti da Fernando Alonso, certo. Quindi insomma sono adesso 19 giri molto molto caldi perché con la safety car Hamilton va ai box, quindi cambia la strategia, cambia le gomme, insomma può esserci il caos e questo è il Gran Premio del Brasile, mai parlare prima della bandiera a scacchi. Carlo, ci sentiamo dopo, sarà il caso, grazie a Carlo Vanzini. Vediamo fino a che punto arriva l'autolesionismo della coppia di piloti Red Bull, questo lo scopriremo nei prossimi 19 giri. Grazie Carlo Vanzini, a dopo. Ciao, grazie. Partiamo da Massimo da Bergamo, poi Alessandro, provincia di Ragusa, Paolo da Roma, questo l'ordine. Massimo, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Dica. Ci tengo a precisare che ho telefono da Bergamo, ma sono napoletano. Sì. Ci lavoro. Sì. due considerazioni molto veloci. La prima è difficile parlare di calcio dopo aver sentito che parte di Pompei cade. Sì. E quindi da napoletano faccio un po' un pensiero inevitabile. L'altra però volevo sottolineare che oggi durante la partita Napoli-Parma i tifosi napoletani hanno chiesto ai tifosi del Parma di uscire dalla gabbia e di andare in tribuna e stare insieme e questo secondo me può essere un primo segnale di cambiamento che auguro. Sì. L'altra cosa è dove può arrivare questo Napoli? Bel domandone. Io dicevo prima che la tappa di oggi, nella tappa di oggi Napoli è tra i vincitori insieme alla Juventus e al Milan. Dove può arrivare questo Napoli? Io credo che sia un'ottima squadra, molto quadrata. Credo che non abbia ad esempio nulla da invidiare alla Lazio capoclasse. E perdonatemi l'espressione forte, però mi pare anche che la classifica del Napoli sia un po' drogata tra virgolette da questo avvio di stagione mostruoso di Cavani, che ha segnato quanto Eto'o, praticamente un gol a partita, 8 nelle prime 10, oggi è tornato al gol, è diventato un giocatore esplosivo come non immaginavo in zona gol, dunque vediamo quanto dura questo magnifico doping Cavani, perché se Cavani continua a giocare su questi livelli, Lavezzi con un golador così costante, perché questo era il segreto, se a Lavezzi si chiede anche di far gol diventa difficile, ma con un golador così costante, cosa che Napoli non ha mai avuto nelle ultime stagioni, sta dando il meglio di sé da quando è in Italia, quindi se questo gioco continua a funzionare, per il Napoli un'Europa, vediamo quanto grande, certamente alla portata. Alessandro, provincia di Ragusa, buonasera. Sì, buonasera. buonasera. Volevo fare delle considerazioni e avere magari il suo parere. Io volevo spezzare una lancia a favore di Benitez, nel senso che lo scorso anno l'Inter di Mourinho, al di là dei discorsi motivazionali che Alessandro, mi perdoni un attimo, sto guardando in televisione tutti gli striscioni che i tifosi della Sampdoria hanno dedicato a Cassano, presidente, perdonare è divino, Peter Pan quanto ci manchi, eccetera eccetera. Ci sono i tifosi della Sampdoria che fuori dagli stracci per l'assenza di Cassano, e oggi si è visto quanto pesa Cassano in queste partite, al di là anche delle vittorie risicate come è successo ad esempio a Cesena, quanto pesi l'assenza di Cassano nella Sampdoria. Ci sono i tifosi letteralmente in lacrime per questo gesto di Garrone che sembra non subire retromarce. Prego Alessandro. Dicevo, parlavo dell'Inter, sì. Dicevo che l'anno scorso l'Inter di Mourinho si basava comunque sul rendimento di Maicon, Sneijder e Milito, che sono tre giocatori che abbiamo visto quest'anno irriconoscibili, al di là poi dell'infortunio anche a Milito, ma proprio irriconoscibili. Quindi dicevo, volevo spezzare una lancia a favore di Benitez perché, e volevo anche il suo parere, io ho visto il gioco dell'Inter a tratti addirittura più bello, più spettacolare, più lineare di quello dell'Inter di Mourinho. Non parliamo dell'Inter del primo anno, quella formata Ibrahimovic, che era a mio avviso inguardabile. Beh, ma inguardabile, però Alessandro, guardi, mi perdoni, lì Mourinho era stato molto intelligente al suo primo anno di Inter. Palla lunga su Ibrahimovic, spalle alla porta e squadra che saliva. Ma era l'Inter di Mancini, era la prima. Lì, secondo me, guardi, questo è importante perché lì Mourinho era stato molto intelligente nel non aver troppa fretta di griffare immediatamente l'Inter, di voler fare immediatamente dell'Inter la sua squadra. Invece Benitez mi pare abbia avuto questa fretta di lasciare subito la sua traccia sul gioco dell'Inter, anche in situazioni... Sapere... Dica. No, scusi. Dica. No, volevo sapere se anche lei ha avuto, non so se ha seguito l'Inter, se ha visto che comunque in alcuni momenti si è visto anche un bel gioco da parte dell'Inter. E poi volevo sapere se secondo lei a Benitez non sarà data chance, nel senso sarà considerato un attenuante post mondiale, si potrà fare un progetto a lunga scadenza o chiederanno risultati immediati? Alessandro, io credo che l'Inter non abbia nessuna voglia, Moratti credo, spero per l'Inter e per i voi interisti, non abbia nessuna voglia di tornare al medioevo degli allenatori Kleenex, quindi credo che a Benitez verrà dato il tempo necessario. C'è questa attenuante, se vogliamo dire, degli infortuni che sono in numero spaventoso, cioè il post mondiale eccetera eccetera, però mi pare anche che Benitez qualche errore l'abbia commesso. Ieri ad esempio ne parlavamo con un ascoltatore, è stato forse, anzi certamente, un azzardo, c'è stata forse un po' di presunzione ad esempio martedì a Londra nel regalare un Maicon in pessime condizioni fisiche, come ben sappiamo, ai denti di Bale. Forse qualcosa di diverso in quel caso si poteva fare, si tratterebbe in questo monte di infortuni di andare a cercare quali possono essere effettivamente, se ci sono, delle responsabilità nella preparazione. È evidente un altro punto, che l'Inter ha trovato Eto'o, che ha avuto un inizio di stagione da fuori classe assoluto, qual è peraltro, però è una dolcissima catena, perché a questo punto che facciamo con Milito quando guarisce? Perché chi muove di nuovo Eto'o dal centro di quell'attacco di cui si è impadronito? In quel modo è chiaro che Milito non è un giocatore che ha la versatilità di Eto'o, dunque non può essere lui il partner di un Eto'o che gioca prima punta. Ci sono diversi equivoci nell'Inter di adesso, al di là degli infortuni. Guardando l'Inter in questo momento io vedo solo parecchi problemi cui è non semplicissimo trovare soluzione. Ci fermiamo un attimo, traffico, poi di nuovo insieme. 800 24 00 24, numero verde. Balotelli, doppietta ed espulsione con il City sul campo del West Bromwich. Siamo alle solite, traffico. Strade in diretta. Sulla Firenze-Pisa-Livorno è chiuso per un incidente con due veicoli coinvolti. Il tratto compreso tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est sulla carreggiata verso Livorno. Ci sono code in prossimità del tratto chiuso da Santa Croce sull'Arno. Si formano code anche in direzione opposta verso Firenze. Sul tratto fiorentino dell'Autosole ci sono code a tratti e rallentamenti per traffico intenso verso Bologna, tra Incisa e Firenze-Scandicci e tra Calenzano e Barberino. Trafficato anche il tratto laziale dell'Autosole nella zona di Roma tra Roma Nord e la diramazione, il grande raccordo anulare proprio proprio verso quest'ultimo. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code verso l'Autosole nei pressi degli svincoli per la Fiera di Ropero, dove è in svolgimento l'ultimo giorno del Salone del Ciclo e del Motociclo. Code anche tra Pero e Cormano verso Brescia sul tratto urbano della 4. Infine raccomandiamo molta prudenza che la guida sulla 15 della Cisa, la nebbia in banchi riduce la visibilità a soli 50 metri tra Pontremoli e Berceto. Ed è tutto, torniamo ad aggiornarvi tra mezz'ora. Promo 24. Essere precursori non significa solo anticipare il futuro, ma anche determinarlo, anche quando si tratta di scegliere un'auto. La nuova Audi A7 Sportback è la massima espressione dell'avanguardia tecnologica e di design. Il prestigio di una berlina, la sportività di una coupé, la funzionalità di una Avant si riuniscono in un concept che non ha precedenti. Le linee fluide del profilo, i gruppi ottici a LED e il frontale deciso sono il risultato di una visione di qualcosa di completamente nuovo. Tre motorizzazioni, tutte con trazione integrale 4 e cambio automatico S-Tronic. 2008 FS TFSI da 204 cavalli, 3000 TFSI da 300 cavalli, 3000 TDI da 245 cavalli. Lasciatevi ispirare dalla nuova Audi A7 Sportback presso gli showroom Audi. A tempo di sport. Dunque, 57 giri percorsi dei 71 previsti, la classifica non è cambiata, i distacchi sì, Vettel primo, Webber secondo a 2,5 secondi circa dal compagno di squadra, a 5 secondi dalla testa della corsa c'è ora Alonso, dunque ultimi giri da vivere in apnea. Paolo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Tutto bene, complimenti per la trasmissione. Tutto bene, grazie. Tutto. Sia chiaro che Aldo mi scrive, certo che dà proprio fastidio la Lazio in testa alla classifica, ma quando mai? Io spero che resti lì il più a lungo possibile, perché è bellissimo, credo, vedere la Lazio lì, per tutti, a prescindere dalle bandiere. Dica. No, per noi magari no. Lei è romanista, lo so. Certo. No, volevo solo dire che oggi penso che la Roma ha meritato la vittoria, anche perché al primo tempo ho visto solo la Roma. La Lazio si mette sempre lì dietro, aspetta. Poi la Roma penso che aveva 8-9 giocatori infortunati, più Burdizio che non si è mai allenato e Menez che durante il riscaldamento si è fatto male, ha dovuto giocare per forza e dopo sì, male 20 minuti è uscito. Perciò anche poi volevo dire anche del fatto del rigore non dato alla Lazio, no? Sì. Poi meno male che anche voi l'avete detto, perché era un fuorigioco nettissimo di Diaz. Perciò non vedo, ecco, l'allenatore della Lazio di cosa si lamenta. Anzi, io potrei dire una cosa, che lui mettendo Rocchi e Nozzarate penso che a noi ci ha molto agevolato. Non saprei, quindi sono valutazioni che è facile fare dopo, come siamo soliti dire. Quanto al resto, la Lazio che si mette lì, aspetta su questo dominio totale della Roma, che dal punto di vista organico nessuno lo discute, è più forte della Lazio, nessuna discussione su questo, credo. La Lazio mi sembra invece una squadra organizzata in maniera eccellente dal suo allenatore e anche in ottime condizioni fisiche. Però per tornare sul derby, è un piacere farlo con due voci storiche dello sport italiano, come Fabrizio Maffei, già conduttore della Domenica Sportiva di 90° minuto, tifoso e anche portabandiera laziale in sport diversi dal calcio. Buonasera Fabrizio. Buonasera a tutti. Grazie. Giorgio Martino, noto telecronista Rai. Buonasera e ora direttore di Roma Channel. Ormai la cosa è vecchia di 2 anni. Per 8 anni lo sono stato. Adesso però la fede resta. La fede c'era già prima. E rimarrà anche quando qualche volta seguivamo le partite insieme a Fabrizio, che saluto affettuosamente. Anch'io ricambio, Giorgio. Fabrizio, quei rigori, quegli episodi dei rigori, tanto che adesso sono sulla bocca di ogni tifoso. Io ho visto, senza polverizzare la partita, un derby di grande equilibrio in cui tutto è stato pari tranne il risultato. Devo fare una premessa, io ero allo stadio, quindi ho visto la partita lì in diretta, non ho visto le immagini in televisione, sì, quindi non so valutare i singoli episodi perché non ho avuto la possibilità di rivederli con la moviola. Credo che la terna arbitrale abbia fatto una serie di errori e poi abbia finito per condizionare il risultato, se non altro sotto l'aspetto numerico. Ho un ritorno fastidiosissimo, però sì. Non riesco a parlare. Allora proviamo a ristabilire il collegamento, ecco, perché capisco la difficoltà. Proviamo a ristabilire il collegamento con Fabrizio Maffei. Intanto sentiamo Giorgio Martino. Che partita e che derby ha visto? Ho visto un derby in cui la Lazio era favorita per la sua posizione di classifica e per come aveva gestito questo avvio di stagione. C'era forse un solo rischio, un solo pericolo per la Lazio, quello di essere troppo sicura di sé e quindi quello di non riuscire a gestire questa nuova responsabilità che le deriva o le derivava dal fatto di essere capolista. E questa credo che sia stata la chiave di volta, anche perché il primo tempo, voi avete anche prima commentato se sia stato un errore o no inserire Rocchi all'inizio e Zárate dopo. Credo che però l'approccio, indipendentemente dal fatto che ci fosse Rocchi o Zárate, sia stato quello sbagliato, quindi la Lazio ha cominciato con troppa paura, forse proprio perché il peso della responsabilità, del ruolo di capolista, del ruolo di favorita, delle tante belle prestazioni fatte fino adesso, secondo me l'ha condizionata, tant'è vero che nella ripresa è rientrata con un altro piglio e poi sono arrivati ovviamente i rigori, gli episodi, ma io credo che la Lazio abbia quantomeno dato mezzo tempo alla Roma, un mezzo tempo che mi è sembrato sia servito proprio come la classica iniezione di fiducia alla squadra giallorossa. Non so se Fabrizio Maffei ha sentito quanto diceva Giorgio Martino. Eccomi qua, riprovo, sì, adesso molto bene, grazie. Sì. Credo sì, abbia perfettamente ragione Giorgio, anch'io ho visto un primo tempo in cui la Roma ha esercitato un predominio assoluto, la Lazio praticamente non ha mai tirato in porta se non a mezza volta con Hernanes. Dopodiché nel secondo tempo, ripeto, dopo il rigore della Roma assolutamente sacrosanto, la Lazio insomma, diciamo, si è svegliata da questo torpore, che sono d'accordo, probabilmente è stato anche il peso della responsabilità. La Lazio era chiamata oggi ad una dimostrazione non tanto di forza, di vigoria, come ha sottolineato più volte Reia, la squadra possiede queste qualità, ma doveva dimostrare di avere personalità. No, è stato, come dire, un esame sbagliato. Poi torno al discorso che stavo cominciando a fare prima dell'interruzione. Credo che il signor Morganti, peraltro arbitro salutato con non molta soddisfazione dei tifosi della Roma, abbia poi alla fine condizionato non la partita, non il risultato, ma il risultato in termini numerico. Perché sicuramente non c'era il fuorigioco in occasione del vantaggio della Roma sul cross di Borriello, mi pare. Sì, Borriello. Poi c'era un rigore a favore della Lazio sull'1-0 per la Roma. Poi c'era un evidentissimo fallo commesso da Battista in occasione dell'azione che poi ha scaturito il rigore del 2-0. Sì. Quindi insomma, diciamo, i peggiori in campo sono stati sicuramente arbitro e assistenti. Sì. Però detto questo, la Lazio è mancata proprio sul piano della personalità. Ci aspettavamo una Lazio più padrona, più sicura di sé, e no, invece non ha imposto il proprio gioco. Chi si aspettava una Roma di rimessa invece si è dovuto ricredere, perché la Roma, se non altro nel primo tempo, nel secondo e soprattutto dal gol della Roma in avanti, è stata un'altra partita. Certo. La Lazio ha pressato, però anche lì in maniera un po' troppo sterile. C'è stata un'occasione, mi pare, di Hernanes che ha tirato sui piedi del portiere della Roma, ma non quella cattiveria cui la Lazio ci aveva abituato in queste giornate. Giorgio Martino, sei d'accordo sull'arbitro? La cattiveria io francamente non l'ho vista nemmeno nelle altre in occasione delle altre partite. Ho visto una Lazio forse molto, molto chirurgica, molto cinica, come si dice. Un po' più libera di testa. Mai padrona del campo. Un po' più libera di testa rispetto alla partita di oggi, forse aveva ragione, anzi certamente aveva ragione Ranieri, che questa partita la conosce come nessun altro. Dire la Lazio ha pressione addosso, vediamo se è un fuoco di paglia, proveremo a darle fuoco. Giorgio Martino, sei d'accordo su un arbitraggio che ha condizionato questa partita? Ma guarda, determinato quasi questa partita. A differenza di Fabrizio, ho avuto occasione sia prima che poi dopo, anche recentissimamente, di rivedere tutti gli episodi e in realtà il possibile rigore per la Lazio per il fallo di rise su Mauri, che sicuramente c'era come cintura, era comunque vanificato dalla netta posizione di fuorigioco di Diaz nell'occasione del passaggio, per cui è un episodio in pratica come se non fosse avvenuto. In realtà invece, ecco, contraddico Fabrizio per quanto riguarda il fuorigioco di Borriello. Fabrizio che non aveva visto gli episodi, come ha premesso. Esattamente, appunto la sensazione della diretta era che Borriello fosse scattato regolarmente su quel rimpallo e poi il servizio dei Rise. In realtà, sia pure di poco, Borriello era in fuorigioco, quindi anche lì si vanifica la posizione. Il gol poi successivo di Leandro Greco, che praticamente aveva fatto gol pochi secondi dopo essere entrato, così come era successo lo vedete quando io sostengo che le partite si vedono meglio in televisione, è la verità. E quindi in realtà c'erano questi due fuorigioco di Borriello nell'azione dell'eventuale vantaggio del primo tempo e di Diaz in occasione dell'eventuale calcio di rigore sull'1-1. Poi per quanto riguarda Batista, in realtà i due giocatori della Lazio si sono scontrati, lo scontro è stato abbastanza spinta prima, però lì c'è una spinta, prima. Sì, ma mi sembra che quello che abbia poi frenato i due giocatori è stato lo scontro fra loro, perché la spinta, anche ammesso che ci fosse stata, era talmente ininfluente che i due sono rimasti in gioco fino a che non si sono scontrati, quindi ecco, questo per quanto riguarda, non insisto perché sicuramente avrei avuto modo di vederlo meglio. Sull'entità della spinta, francamente, poi con l'immagine rallentata non si ha la percezione di quanto abbia influito su una caduta che però mi sembra fortuita, proprio nello scontro fortuito, nella sfortuna che i due si sono scontrati fra loro. Ecco, questo, su comunque al di là di tutto le chiacchiere stanno a zero. La Roma ha meritato e ha vinto un bel derby con due calci di rigore, forse è il risultato più ambito dai tifosi, no? Certo. Ecco. Ma io se penso non c'erano, forse ci fossi la Roma l'ha vinta meglio. E la Lazio l'ha persa, ecco. Però quello che io voglio, fondamentalmente l'ha persa la Lazio all'inizio con il suo atteggiamento, sì, e la Roma si è resa conto, nonostante le sue difficoltà, e mancava tutta la qualità, perché mancava Quan in difesa, Pizarro a centrocampo, Totti davanti, è mancato Venezia praticamente già nel riscaldamento. Si è resa conto grazie al primo tempo che poteva essere in partita e c'è andata. Ma quello che io voglio chiedervi per chiudere questo collegamento è: la Lazio mi ha dato l'impressione di aver perso questa partita forse per la troppa pressione sentita, però di essere una squadra che, viste quelle che ci sono dietro, l'Inter in questa situazione, il Milan che oggi ha giocato bene ma ha preso altri due gol a Bari, la Juventus che ancora fa fatica con quella montagna di infortuni che ha, eccetera eccetera, la Lazio ha dato l'impressione di essere comunque una squadra in salute che potrebbe rimanere lì davanti ancora per un po'. La Roma di converso ha dato la sensazione di essere una squadra cui magari questa partita cambia la stagione, però di una squadra non completamente guarita. Fabrizio Maffei. Ma guarda, bisognerebbe veramente avere delle doti paranormali. Io credo che la Lazio stia facendo un campionato al di là delle sue possibilità, lo dico insomma perché credo in quello che dico. È una sorpresa vederla in testa alla classifica, è una squadra che ha perso due partite. Credo che tutto sommato il ruolino di marcia di Reia, o che si era prefissato Reia all'inizio della stagione, fosse quantomeno addirittura più negativo di quello che poi oggi alla resa dei conti. Quindi la Lazio deve assolutamente, come dire, festeggiare la possibilità di essere ancora prima, per quanto francamente non lo so, ma certo il primo posto non spetta di diritto alla Lazio e non compete alle possibilità della Lazio. Per quanto riguarda la Roma, credo che questa partita, come è accaduto altre volte, abbia davvero il potere di trasmettere una scarica, se non altro nervosa, positiva intendo dire, ma nervosa, debbono recuperare i giocatori, questo sì, però è confortante sapere che quantomeno questa squadra, quando c'è bisogno, sa fare ricorso a queste energie, non fisiche, non tecniche, mm-hmm. ma ripeto ancora, di nervosismo emotive. Emotive, esattamente, sui nervi, gioca sui nervi e ha portato a casa un'eccellente partita. Giorgio. Sì, per quanto riguarda la posizione della Lazio, io credo che possa restare per parecchio ancora di davanti, soprattutto in considerazione di quanto stanno balbettando Inter, Milan, Juventus, tutte le cosiddette grandi o presunte tali della previsione di inizio campionato, sicuramente chi per gli infortuni, chi per gli impegni di Coppa, chi per motivi diversi, cambio di modulo, cambio di allenatore e così via, non riescono ad esprimersi con continuità. Questa discontinuità delle grandi ha finora favorito la Lazio, che anche perdendo il derby c'ha ancora due punti di vantaggio sulla seconda. Per quanto riguarda la Roma, credo che sotto l'aspetto della spinta psicologica, ovviamente la vittoria nel derby potrebbe essere fondamentale, come lo fu per esempio lo scorso anno, indubbiamente, ma soprattutto credo che sarà fondamentale adesso recuperare i suoi giocatori migliori, chiaro. Perché, ripeto, Juan, Pizarro, lo stesso Totti, Taddei, troppi giocatori assenti contemporaneamente, anche se devo dire una sorpresa abbastanza gradevole, piacevole sotto questo aspetto, Greco e Simplisio, che sono stati un po' gettati nella mischia, veramente quasi a raschiare, sì, il cosiddetto fondo del barile, in realtà hanno dato un contributo preziosissimo. Non c'è dubbio. Professore, vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie a Fabrizio Maffei e a Giorgio Maffei. Ciao Giorgio. È stato davvero un piacere. Secondo me è molto divertente, non so cosa ne pensate. 800 24 00 24. Poi ripartiamo da Cristian, provincia di Pisa, Piero dalla provincia di Piacenza, altri ascoltatori all'800 24 00 24, numero verde, 69 giri, ultimi due del Gran Premio del Brasile, e nulla è cambiato rispetto alle posizioni iniziali. Vettel, Webber, Alonso. A dopo. Dove vai, caro? Vado a fare il cambio, cara. Ma il cambio di cosa, caro? Cara, scatto a fare il cambio di stagione da Fassina. Infatti, questo è il momento ideale per cambiare vettura, sfruttando le irripetibili condizioni di prezzo in pronta consegna. Il cambio di stagione è adesso! Fantastico, caro! Ti seguo da Fassina, così cambi anche la mia auto, sabato 13 e domenica 14 novembre. Cara, per maggiori informazioni, visita il sito gruppofassina.it. Ho scelto un partner che garantisca affidabilità, sicurezza e tecnologia di valore. Ho scelto Dell. Ho scelto un partner capace di supportare la crescita e la qualità del mio business. Ho scelto Dell. Ho scelto un partner in grado di offrire consulenza e soluzioni su misura per la mia impresa. Ho scelto Dell. Fai la scelta giusta. Dell e Intel insieme per la tua azienda. Il futuro, pensato per vincere le sfide del presente. Scopri chi ha scelto. Visita il sito dell.it/ho scelto. 1 euro, 2 euro, 3 euro, 2200 euro. È questo che Arca Previdenza può farti risparmiare all'anno sulle tasse. Fai bene i tuoi conti. Per il tuo futuro scegli Arca Previdenza, il fondo pensione aperto più scelto dagli italiani. Con 5 linee, di cui 2 a capitale garantito, trovi sempre la soluzione più adatta a te. Vai su arcaprevidenza.it. Arca SGR, più valore al tuo risparmio. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione, leggere note informative e regolamento. Un amico me l'ha chiesto per il trasloco, un altro me l'ha chiesto per caricarci la legna, mio zio me l'ha chiesto per portare i quadri alla mostra. Ma perché non ve lo comprate un Transit? Transit Vanti DCI a 13.250 euro, solo a novembre. Ciao Fax, hai già detto alla raccomandata che la vostra epoca è quasi finita? Ancora no, Legal Mail, ma presto lo scoprirà da sé. Con te, Legal Mail, molti professionisti e imprese si sono già adeguati ai nuovi obblighi di legge e hanno scoperto tutti i tuoi vantaggi. Sei la posta elettronica certificata più sicura, affidabile e completa. Solo tu segnali via SMS la posta in arrivo, metti a disposizione un call center specializzato, conservi tutti i messaggi nell'archivio di sicurezza e... E chi mi vuole avere mi trova su legalmail.it. È un prodotto InfoCert. Scade il 30 novembre il versamento dell'acconto per IRES e IRPEF. Domani, sul Sole 24 Ore, una guida con tutti i consigli degli esperti su obblighi per imprese e persone fisiche, modalità di ricalcolo e riduzione del carico fiscale con il metodo previsionale. Domani in edicola e online, sul Sole 24 Ore. Il punto punto di forza di un'economia moderna è la professionalità dei lavoratori. Anche le competenze più qualificate hanno bisogno di aggiornamento. Per questo Confindustria, CGIL e CISL e UIL hanno creato Fondi Impresa. Fondi Impresa finanzia da anni la formazione continua in tutte le aziende italiane. Oltre 72.000 imprese hanno già aderito. Più di 1 milione di lavoratori ha già fatto formazione. Con Fondi Impresa le persone valgono di più. E le aziende recuperano competitività. www.fondimpresa.it. Ragazzi, mi serve un'auto nuova. Consigli? Buca le ruote della vecchia. Un cambio gomme in Citroën vale molto di più. Con il concorso Cambia due pneumatici e vinci. Se acquisti due pneumatici presso i riparatori autorizzati Citroën, puoi vincere una Citroën C3 Picasso. E se ne acquisti quattro, raddoppi le possibilità. In più, controllo gratuito della batteria o una nuova a 54 euro. Esempio di prezzo valido per una Citroën C3 benzina. Scade il 31 gennaio 2011. Info su citroen.it. A tempo di sport. Dunque, è finito in questo istante il Gran Premio del Brasile a Interlagos, tutto come all'inizio. Vince Vettel, secondo Webber, terzo Alonso, quarto Hamilton. Questa è la classifica finale del Gran Premio di Interlagos. Dunque, abbiamo visto fin dove arriva l'autolesionismo della Red Bull, che consente ad Alonso di approcciare l'ultima corsa della stagione con 8 punti di vantaggio su Mark Webber. Vettel mantiene vive le sue speranze di titolo mondiale, ma la sensazione, e lasciatemelo dire sottovoce, anche la speranza, è che questi finiscano per concederlo comunque alla Ferrari, perché questo ha detto il finale della gara di oggi. Christian, provincia di Pisa, poi Piero, provincia di Piacenza. Buonasera Christian. Buonasera a lei, signor Genta. Dica. Volevo parlare dell'Inter. Se secondo lei, da intenditore assolutamente più di me, non hanno peccato di presunzione quest'anno Moratti in primis, pensando di mantenere la squadra dell'altro anno, non vendere Maicon per non prendere un centrocampista. Lei ci mette anche Milito nel pacco Milito, che non è stato ceduto? Milito no, a parte l'infortunio. Secondo me Maicon gli avrebbero dato su un piatto d'argento Bale, quando non valeva niente, in cambio di Muntari, e aver preso un allenatore come Benitez, se non è solo con il contratto più breve dell'epoca Moratti, se non hanno in mente un altro anno di arrivare a Guardiola, se non messi insieme. Però quest'anno stiamo facendo l'autolesionismo. Ma Cristian, guardi, come traghettatore mi sembra un po' costoso, un po' pesante, un po' ingombrante come traghettatore per una stagione. Ma Moratti ne ha avuti tanti traghettatori molto costosi. Questo è vero, però insomma Benitez in linea di massima è una scelta di medio termine, non è una scelta di traghetto, secondo me. La verità è che insomma possiamo discutere al di là della cessione di Maicon. Forse all'Inter è mancato, non so se si chiama presunzione o se si chiama mancanza di coraggio fino in fondo. È chiaro che dopo quello che ha vinto l'anno scorso le scelte erano due: o si andava avanti di conserva sulla falsa riga della squadra dell'anno scorso, ed era molto difficile perché il capobranco è andato via, è arrivato un allenatore molto bravo che ha molta fretta di far vedere anche quanto è bravo, di lasciare la sua firma su questo quadro diverso, mentre Mourinho, ripeto, era stato intelligente nel gestire il dopo Mancini con una squadra comunque vincente e ancora affamata. Probabilmente, ma questi sono discorsi che potremo fare a chiusura di stagione, quando saranno bravi tutti, probabilmente con grande coraggio si poteva rivoluzionare quella squadra che aveva vinto tutto, ripartire da zero e costruire magari una squadra, avendo le possibilità, concessioni eccellenti naturalmente, di costruire una squadra a immagine del calcio voluto da Benitez. Questa squadra mi sembra un po' a metà di tutto questo discorso. Sono stati tenuti i giocatori principali, è stato ceduto uno come Balotelli, che col senno di poi, al di là di tutte le sue bizzarrie, poteva essere il partner offensivo ideale di un Eto'o prima punta, mentre ora con Eto'o, che ripeto, chi lo muove di lì dal centro dell'attacco sarebbe folle, con Milito che non può più andare ad occupare l'unico ruolo in cui può giocare in attacco, in cui è fortissimo, uno dei più forti al mondo, mi sembra un Inter pieno di problemi, con un Maicon in fase calante ormai da un paio di stagioni, e questo è inutile nasconderlo, con l'età anagrafica e di militanza agonistica dei vari Cambiasso, di Thiago Motta, Samuel, che tra l'altro si è infortunato molto seriamente. Insomma, mi sembra una squadra con moltissimi problemi. Questa è un po' l'Inter di Coutinho e Biabiani, che sono ancora molto acerbi per queste platee, per questi, oltre che Dietò naturalmente, per queste platee, per questi palcoscenici. Piero, provincia di Piacenza, buonasera. Allora, buonasera a lei e agli ascoltatori. Il problema principale della gran parte delle squadre italiane, comunque, e che ha falsato tra l'altro il campionato dell'anno scorso con tutti gli incidenti e gli infortuni della Juve, sì, che sta falsando quello di adesso, e il rendimento tra l'altro che è negativo e che sarà negativo delle squadre italiane, sono gli incidenti e gli infortuni. Sì. È tutto lì. Il nocciolo della questione è lì. Sì. E la causa principale, dove nessuno va mai a mettere il dito, è l'occhio e l'attenzione, è l'alimentazione sbagliata. Io sono un medico, penso di avere un'esperienza enorme. Lei è un medico che si occupa di queste situazioni di alimentazione? Sì, beh, la mia passione, mi occupo di praticamente di ogni patologia, ma ho avuto in mano anche atleti di altissimi livelli proprio. Lo faccio più che altro per passione, questo. La mia occupazione è quella di medicinali. Sì, mi perdoni, dottore, mi suona strano che in un ambiente iperprofessionalizzato. Ma infatti, non vanno a mettere il naso dove, nelle cose comuni quotidiane, nell'alimentazione quotidiana, dove sono liberi e liberissimi di mangiare quello che vogliono, di avvicinare qualsiasi dolce o dolcificante o zucchero, perché il problema è proprio lì. L'uso di determinate sostanze che causano un indebolimento del sistema osteoarticolare. Certi dolcificanti, quelli che adesso con l'ozono sono andati molto in voga, le maltodestrine e i fruttosi. Sì. È tutto lì. Ah. Il sistema osteoarticolare perde sali minerali, si indebolisce e basta una stagione un po' avversa, e tra l'altro adesso non ci siamo ancora dentro del tutto, ma negli ultimi 2 anni ci sono stati 2 inverni tosti e tremendi, e ci sono tutti questi incidenti di fortuna. Sì. Basterebbe un'alimentazione corretta e il sistema osteoarticolare più forte, più robusto, sopporterebbe i campi irregolari, sopporterebbe le 2 partite settimanali, sopporterebbe dei contrasti, come l'incidente ieri sera di Samuel. Se i legamenti fossero stati saldi e robusti, ecco, non sarebbero saltati. Sì. Ma il discorso alimentare, anche su quello che è avvenuto nell'intervallo al giocatore Schneider, quel mancamento che fa, che pareggia quasi quello che era successo ai mondiali di Francia a Ronaldo, sì, perché nessuno è andato a vedere che cosa avessero mangiato prima, in precedenza. Sì. E sembra... questo è il grosso guaio, è la supponenza dei medici, che pensano che loro con le loro maltodestrine, i loro dolcificanti, le loro tabelle, le tabelle delle chilocalorie, di risolvere niente. Ma se una persona non tollera una sostanza, quella sostanza anche in piccole quantità crea dei problemi. Sì, è una prospettiva, una chiave di lettura estremamente interessante, che insomma, si cercano mille spiegazioni a questi infortuni. Questa può essere certamente una chiave da approfondire, anche se, ripeto, quello che trovo curioso è che in un ambiente così iperprofessionalizzato, dove si controlla al grammo ciò che i calciatori prendono, ciò che gli sportivi assumono, eccetera, si possa cadere in un errore di questo tipo. Magari può essere un'idea anche per essere benessere, chi lo sa, la gireremo a Nicoletta Garbone. Traffico, poi andiamo da Carlo Vanzini per commentare questo finale di Gran Premio con tutto l'autolesionismo del mondo, torno a ripetere, della Red Bull. Traffico. Con i pneumatici invernali Pirelli guidi in sicurezza in tutte le condizioni stradali. Info su pirelli.it. Vi presenta Strade in diretta. 18.45, iniziamo con una segnalazione che riguarda la Toscana. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code per un incidente con 2 veicoli coinvolti tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est verso Livorno. Si formano code anche in direzione di Firenze. La superstrada è rimasta chiusa fino a poco fa per consentire i lavori di recupero dei mezzi. Sul tratto milanese della 4 ci sono code per un veicolo fermo in avaria e per traffico intenso tra Pero e raccordo per Viale Certosa verso Brescia. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code verso l'Autosole nei pressi degli svincoli per la Fiera di Ropero. dove è in corso l'ultimo giorno del salone del ciclo del motociclo. Sul tratto toscano dell'Autosole ci sono code a tratti e rallentamenti per traffico intenso verso Bologna, tra Incisa e Firenze Scandicce, tra Calenzano e Barberino di Mugello. Traffico con code a tratti anche in entrata a Roma sulle due diramazioni nord e sud dell'Autosole. Prudenza infine per la pioggia al nord e sulle regioni tirreniche del centro-sud, attenzione invece alla nebbia sulla 15 della Cisa, la visibilità si riduce a soli 50 metri tra Pontremoli e Berceto. Ed è tutto, torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Sempre di più in rete le persone cercano e condividono informazioni sulle aziende e i loro prodotti. Per questo è necessario avere un'ottima reputazione e credibilità anche online. About You aiuta a migliorare e monitorare l'identità e la reputazione, partendo dal web per raggiungere ogni giorno milioni di persone. About You guida nell'ascolto di quello che si dice nei blog, forum, social media e portali. Aiuta a capire come gli utenti percepiscono l'azienda e i suoi prodotti. Grazie ad una consulenza mirata a costruire una solida identità online, About You permette alle aziende di essere competitive anche in rete. About You è parte di TSV, strategie per il marketing online. Informazioni aboutyou.it. A tempo di sport. Dunque Carlo Vanzini, non è cambiato nulla, quegli ultimi 19 giri di cui parlavamo prima non hanno modificato la classifica Vettel, Webber, Alonso, Hamilton e in fondo neanche la classifica mondiale piloti. Eh sì, così alla fine la Red Bull ha deciso di non decidere, di lasciare Sebastian Vettel davanti a Mark Webber. Questo costa parecchio a Mark Webber, perché con la vittoria si sarebbe presentata ad Abu Dhabi a un solo punto da Fernando Alonso, il che avrebbe voluto dire chiudere la gara davanti a Alonso in qualsiasi posizione di classifica, fatta eccezione per le ultime due posizioni che danno i punti il nono e il decimo posto. Quindi voleva dire avere non il match point, ma avere praticamente il mondiale in tasca, perché sappiamo, almeno diamo per scontato, che ad Abu Dhabi sia ancora uno show Red Bull. La Red Bull tiene aperte tiene aperta la porta a tutti e due i piloti, poi magari avranno ragione loro, perché magari poi Webber combina qualcosa da Abu Dhabi, va a vincere Vettel e vince lui il mondiale. Quindi, insomma, aspettiamo Abu Dhabi prima di dare un giudizio. Certo è che adesso a macchine ferme, facendo questi calcoli, è impressionante, perché Webber è adesso invece a 8 punti da Alonso, e con la vittoria di Alonso, con la vittoria di Webber, Alonso secondo, il mondiale va a Fernando Alonso. Sì. Quindi vediamo ad Abu Dhabi. Credo che Alonso debba fare un po' mea culpa per la qualifica e per quei primi giri, forse ha aspettato un po' troppo, probabilmente non ce la faceva, però ha aspettato un po' troppo a passare Hulkenberg. La differenza con le Red Bull è arrivata lì, perché se fosse stato attaccato nel finale ne aveva per riuscire a cercare un attacco. Grazie Carlo, tutto grazie, materiale per il prossimo weekend, che sarà particolarmente incendiario sul fronte. Bello. Alla fine è quello che volevamo, dai, è quello che volevamo. Dai. Grazie Carlo, un abbraccio. Alla grande, ciao. Grazie Carlo Vanzini. E io vado subito in Spagna da Filippo Maria Ricci, invece, con il derby di Madrid che non scalda mu, come scrive oggi Filippo sulla Gazzetta, meno il titolo del suo servizio. Beh, l'Atletico Madrid non è il Milan, caro Filippo. No, assolutamente. Poi comunque ho fatto un po' di conti e arriviamo a 51 derby per Mourinho. Sì. In 10 anni, una media di più di 5 a stagione. Il ragazzo si sta annoiando? Tu dici? Non sa più cosa dire? No, diciamo, scalda i motori ogni tanto. Aspettiamo questa sfida col Barça. Sì, aspettiamo per l'appunto la sfida col Barça, lì sarà preceduta da qualche murignata di sicuro. Intanto non so come la pensi tu, però il Real Madrid mercoledì sera a Milano ha dato la dimostrazione di essere già una grandissima squadra. Sì, Mourinho ha lavorato veramente bene, insomma, se consideriamo che sono pochi mesi e il Real Madrid ha cambiato faccia. Era già una buona squadra che vinceva tante partite, adesso è una squadra seria, solida, e anche la voglia che ha messo in campo a Madrid, sia a Milano, per agguantare questo pareggio mi sembra abbastanza significativa. E ieri Mourinho ha un po' posto l'attenzione su come hanno festeggiato i suoi giocatori il pareggio, tutti insieme alla bandierina. Sono dettagli molto significativi. Sì, anche in quel finale si legge la mano di Mourinho, no? Quando è sotto svuota l'arsenale senza nessun problema, senza nessuna preoccupazione, e anche fortuna quella che adesso manca a Benitez, spesso il gol in quelle situazioni disperate in un modo o nell'altro lo trova. Sì, anche l'anno scorso secondo me con l'Inter. Lui ripete sempre, a Mourinho piace ripetere, no, quando io sono in difficoltà poi gioco con la difesa a tre, metto tutti gli attaccanti, no, mostra questa sua faccia offensiva e spesso poi gli va anche bene sul campo. A Benitez no, non so se è solo questione di quella parola con la C, sì, o se invece si tratta di motivazioni e di quello che uno trasmette. Sì, no, quella parola... io propendo più per la seconda ipotesi. Sì, però anche quella parola che inizia con la C è una dote molto importante per un allenatore, Filippo. No, questo è senz'altro, però non si può ridurre a questo. Insomma, io non so, l'anno scorso qui il Real Madrid ha fatto 96 punti, il record di punti della Liga, perdendo il titolo col Barcellona. Ovviamente le vincevano tutte, l'impressione però adesso è completamente diversa. Si continua a vincere, ma si vince in maniera completamente differente. Anche lì può essere fortuna, però secondo me c'è un lavoro alle spalle per costruirsela. Sicuro. Filippo, per chiudere, per curiosità, turnover oggi nel derby, sì o no? No. Mourinho ha già detto ieri, giocano sempre gli stessi. E anche poi ha detto, dice, ma non li stai spremendo? Dice, oh, poi a un certo punto cambieremo. Sì. Però per ora no. Ma fa benissimo, perché deve costruire, deve lavorare su questa squadra. Questa secondo me sono 11 mossa... più Arbeloa, che è il dodicesimo, che può entrare ogni tanto. Pedro León, uomo delle emergenze. Benzema, tredicesimo. Pedro León, esatto, uomo delle emergenze. Così. Esatto. E per ora è così. Poi dopo vediamo, adesso ma mercoledì gioca col Murcia in Coppa del Re, vediamo, perché comunque ha fatto 0-0 là, deve vincere, però sicuramente ci sarà qualche cambio, però non erano i cambi come l'anno scorso, tipo 8-9 cambi, certo. non succede. Ma è corretto, fa benissimo, perché lavora su questo gruppo, di titolari, poi quando questo gruppo di titolari sarà consolidato come vuole lui, il turnover, però mai in dosi massicce, perché lui fa così, lo conosciamo ormai bene. Grazie Filippo, buon lavoro. Grazie, buon a voi, derby. Un abbraccio. Buon derby. Noi invece dobbiamo aspettare ancora una settimana per trovare quello di Milano, domenica prossima 20:45, sarà bello aspettarlo insieme la prossima domenica. Mario Poltronieri, buonasera, voglio chiudere ancora con la Formula 1 per sentire il parere di Mario Poltronieri. Buonasera a tutti. Allora, Alonso con il terzo posto dietro alle due non imprendibili, ma comunque ha avuto in partenza qualche ritardo da Hülkenberg che lo ha rallentato, forse avrebbe potuto conquistare addirittura un secondo posto. Comunque Vettel, arrivando davanti a Webber, praticamente ha consentito ad Alonso di guadagnare o di mantenere, diciamo così, ancora 8 punti di vantaggio, il che vuol dire, se lo facciamo in termini percentuali, che Abu Dhabi le probabilità di Alonso di vincere il titolo sono almeno dell'80%. Sì, e glielo regalano per gentile concessione di quelli della Red Bull. Non so se hanno avuto paura di quel giudice brasiliano che ha detto, se fatti i giochi di squadra arrivo con le manette. Non so. Sì, e comunque è di tanto. Un dolce suicidio quello della Red Bull, che almeno è tutta contenta di aver vinto il campionato costruttori, che non è una cosa da poco per una squadra nata 6 anni fa. Quindi Matesic, cioè il proprietario poi della Red Bull, è arcicontento, perché lui stesso ha detto, io voglio che ci sia battaglia perché fa pubblicità al mio marchio. Non so se Webber è altrettanto contento, però indiscutibilmente sì. Vettel ha fatto una corsa vincente, non so, ha fatto una corsa eccezionale. Sì. Mi dispiace per Massa, che ha avuto tantissimi problemi, si è dovuto fermare, gli ha messo, cambiato una gomma, poi gliene hanno dovute ricambiare, rimettere a posto, insomma, e dopodiché piuttosto nervoso, ha avuto parecchi contatti, quindi diciamo non ha contribuito alla squadra, è un problema che forse andrà affrontato in futuro per la Ferrari. Certo. Comunque Alonso è un grandissimo campione, non c'è dubbio. La Ferrari ha fatto una macchina che è altamente competitiva, la Red Bull continua a essere la più veloce e i suoi piloti indiscutibilmente sono dei grandi avversari, ma Alonso, come dico, ha molte possibilità di vincere il titolo la settimana prossima. Sì, vale il proverbio, tra i due litiganti il terzo gode, il parroco di Maranello è già lì che lucida le campane, insomma, anche se è un risultato sportivamente piuttosto comico questo, perché con la macchina più forte perdere il mondiale e regalarlo agli avversari, secondo me, è una forma di autolesionismo, ripeto, assoluta. Grazie Mario, la prossima settimana ne avremo da dire. Domenica. A domenica. Grazie a Mario Poltronieri. Come sapete, oggi si è chiusa anche la stagione del Moto Mondiale con la passerella di Jorge Lorenzo. E adesso tutti curiosi di vedere Valentino Rossi in sella alla rossa. Tutti argomenti su cui avremo modo e tempo per tornare. Intanto andremo dritti sul basket dalle 8:30 alle 9 come ogni domenica. Per il momento grazie a Giorgio Drucchi in redazione, a Paolo Corleoni in regia, più tardi.